Questa è Lovebot Radio. Mentre leggende corrono lontano, ho vissuto e corso ogni verso di un morso d'amore, divenni un mostro di un cuore che amava di giuno lontano e non più mia. Eri serenata dolce dentro amarezze di un caos di vita, ma eri musa ignorante in ogni verso e nota della mente. Ho vissuto il corso, morso d'amore di venne in mostro di un cuore che t'amava di giuno. Sapore dolce, onesta, chi sei? Fragola in fiore, liquore nella mia bocca, immerso dentro a questo bicchiere, il tuo amore, chi sei? Piccolo fiore, chi sei? Ci ha unito per sempre il dolore. Mia mano prova a prenderti, ma lasciandoti cerca la tua immagine, chiudo gli occhi e rivedo, ho fumato un lutto di gloria e rancore, è tutto più brutto e grande suonava il mio dolore, ora che non t'amo. Se non col cuore di ieri, quello di oggi litiga con quell'altro. Due persone, una delle due è da dimenticare. Ora trasformare, fondere per trovare ere nuove di un nuovo pensiero. Ma ora parte il nostro veliero. Amore, ho fumato un lutto di gloria e rancore, è tutto più brutto e grande suonava il mio dolore. Ora libero, ora magari ti penso, ora è vero sei libera, mentre la mia mano prova a prenderti, ma lasciandoti cerca la tua immagine, chiudo gli occhi e ri-